Ciao. Ehi! Uia! Da bava! Uia, ga! Ma se ti metti il capo acceso, non c'è. Acceso anche il computer che sto facendo una questione e per cui ho sentito chiamare e sono entrato già. Ci sentiamo dopo. Ehi, ehi, va bene, buona continuazione. Attenzione, prego. E chi è? Io già mi sono qui. Hola. Hola. Chi è, chi è? Buonasera, benvenuto al sacco. Buonasera anche a te. Ma dove mi hai pigliato una birra un giorno? Dopo sai poi ho avuto un'intervento, una cosa e l'altra, e sono... Se tutto va bene ci vediamo in settimana. Ti chiamo prima, la mattina, quando esco dal lavoro, così. La scusa di andare a prendere la mia nipote a scuola. Dopo passare il sabato, poi invece ho avuto un contrattempo e non ce l'ho fatta, altro po' tardi, capito? Sono da aver chiamato. E beh, tutto a posto, Antonio? Sì, sì, abbastanza, tutto a posto, sì. Ma da Dio, perlomeno adesso, ancora, sai che ti sto toccando sotto, perché non so se mi funziona più. La tua non funziona più. Non cercate compagnia, Antonio. vabbè, funziona a metà la verità. Da tutti i cosi che ci sono, certo, adesso vediamo cosa succede. Tipo di febbraio, se devo fare un lavoro un'ora con te, un'ora con cosa, come dico, di famiglia, con prete, non lo so, dipende dal comune, diceva quello, no? È interessante, sei un po' impegnato, dai, ti volevo chiedere una cosa, la signora come sta? Poi, è tutta come prima, tale uguale, tutto cadavere e basta. Sempre fumando sta? Sì, due pacchetti al giorno, quasi. Facciamo un e mezzo, dai. Oioioioia. Se lo smette, Antonio, se lo smette, guarda. Boh. Va bene, dai. Comunque tutto a posto, dai. Per andare peggio così, Antonio. Ah, beh, se non lo smette, devono fare i suoi. Cosa devo fare io? A dire cosa si incanta, a un certo punto, cosa devo fare? Non sei a casa tua, no? Altro non posso fare. Antonio, ma non sei a casa tua, no? Sì, aspetta. Adesso sono con l'apparecchio grande. Poco fa ero con portatile. Ah, mi stavo meravigliando. Adesso sei tu, poc'anzi eri la metà di te. Io lo so. Era un po' che non scendevo niente, capito? Era parecchio spenti. E qui adesso con l'apparecchio grande. Siccome tutto il vento, la barriera, adesso si, cerco di sistemarmi tutto questi giorni. L'antenna, sembra perché quelle che ci sono, non piacciono proprio per niente, sono ginose. Se c'è una cosa, casa me ne scende tutto il palo in terra, me ne scende. E allora è tutto da cambiare, insomma, è tutto da cambiare. La bella giornata ti cambi tutto. E infatti voglio fare quello. Cambio tutto, cambio il sistema di operativo delle antenne. L'antenna del baracchino la tolgo da lì, dove ce l'ho adesso, la metto dall'altra parte, poi più giù faccio altri due fori, metto la direttiva, quella verticale, e poi sono a posto. Ma stai usando tipo la riscona per la 27 così? No, sempre la direttiva sto usando, quella solita, grazie a Dio. Quella mi ha regalato, l'ho sigillata e a posto, grazie a Dio, non ho mai avuto problemi, è sempre stata tranquilla. Poi c'è la X700, l'ultima che mi è rimasta, la X700 è andata a te, quindi figurati tu, e vanno bene, sono antenne che vanno veramente bene. Sai la mia, che non mi ricordo cos'era, la X? La tua, la X30. Ah, la X30 era... Aspetta. E invece quella che tu hai smontato è la X500, quella che è in due pezzi, no? No, la X700 quella che ho smontato io, è quella lì. Quella più lunga, è lunga quasi un metro e... Adesso mi ricordo se è 1,10 m o 1,20 m, la verità. Ah, è che sono in due pezzi, sono due pezzi, là, ho capito. Già andava bene lo stesso, no? Sì, sempre per voi, quindi non è problema per quello. Lo stesso guadagno c'hanno, forse appena più guadagno qualcosa in più, questo non lo so, ma comunque la X30 è quella che ti ho dato a te e funziona bene. Lui l'aveva, in pratica la mia cognata l'aveva provata a Rossi e non usciva l'accidente, evidentemente l'ha messa in qualche punto che non usciva nulla. Infatti a te funziona bene, non ho capito perché. Esatto, io appena la piazzata, hai visto? Appena la piazzata va benissimo. Adesso sto scendendo la direttiva, vai Antonello. Con la direttiva sto scendendo, adesso ogni tanto cambio, capito? Antonello? Sì, sono qua, già lo so, infatti, appunto per quello. È giusto che sia così. Io, la verticale è buona, la verticale, la verità. Solo che quando attacchi, ha attaccato l'antenna di baracchino, normale, non serve a niente, vuole spostare almeno 6 metri, il discorso è questo. Esatto, io adesso sto scendendo la direttiva, quella che ho piazzato sopra l'antenna della televisione, là, puntata verso Sassari. Invece quella l'X30, quella che tu hai mandato a me, va benissimo, l'hai visto dove l'ho piazzata? Già l'hai vista, è sotto la... quell'antenna della 27 e va bene, anzi va benissimo. Infatti già lo so. Vabbè, tu adesso c'è la direttiva, ma comunque va benissimo. Anche la X30 addirittura. Solo che io non c'ho spazio in questo momento, hai capito? Devo fare i fori al momento opportuno e installare due gaffe nuove per spostare la mantola dalla parte opposta dove è adesso. E allora adesso al limite installo un paletto e lì ci installo la verticale per la V e per l'U, l'X300. E sotto la mantova ci penso la direttiva col motore, che ce l'ha un amico mio, ce l'ha. Ho trovato il motore col control box e quindi sarà a posto. Gli ho già chiesto, te lo già vedo là, e così almeno me la giro a destra o a sinistra, la metto orizzontale e così parlo con fuori. Esatto, io quello là lo adesso concio 2 minuti di tempo, quando vado in fede, prendomelo, smonto, quello che mi hai dato tu quel motore, così dopo lo piazzo, lo vediamo piazzato e vediamo cosa, se va o non va. Sì, già va, non ti preoccupare. Non c'è niente col motore, in pratica bisogna lubrificarlo, eccetera, eccetera, capito? E pertificato si è accorto che non entra manco l'acqua dentro. Quindi a un certo punto vuole ingrassato, vuole più che altro. Solo che c'era la direttiva che quella che ha montato, questa pesava un sacco di cose, intorno ai penso 3-4 kg, una cosa del genere. Poi me l'avevo isolata in pratica dalla, cioè la massa non c'era, e quindi la direttiva è come se fosse un pezzo di filo elettrico, è stato così, lo giravi, capito? Quando lo si è fatto in pratica nel palo la direttiva, e aveva si è guadagnato un sacco di cose, di decibel. Scusa, poi si comunque ha preso la ingrasso, la faccia a pezzi, una volta per farla ingrassata, poi si piazza sopra a tempo buono. La metto dove c'è la antenna per la 27 e le piazzo con l'altra antenna che c'ho. E su che andiamo, Antone? È già un grido, adesso prendiamo la vera, mi. Tanto il coso del box ce l'ho, anzi ne ho due, ho uno o l'altro dove andare bene. Stasera ho visto quella direttiva lì che c'è conservata in quel laboratorio, c'è quella direttiva, più che altro non la direttiva, il motore, ho visto che è abbastanza nuovo, quindi adesso... Io lo chiedo e me lo installo, me la metto in orizzontale, però non mi metto quella, mi metto l'altra di direttiva, quella doppia, hai capito? E così la faccio girare, da una parte all'altra, mi metto una verticale e l'orizzontale, poi vedo cosa posso fare, da una parte all'altra, a un certo punto. Perché ci sono dei punti ripetitori, ho visto su internet per la questione delle IPMR, capito? Se faccio uno di quelli, prendo e parlo quello, capito? Chi se ne frega? Ma se faccio il codice, ti metto a parlare. Pulizia, sì, adesso vediamo. E' po' buono, facciamo per la pulizia così, questo lo ingrasso, lo faccio a pezzi e poi vediamo. E tuo cognato, sempre al lavoro, sì? Su, se ne vuole fuggire da lì, se ne vuole. E perché? Casotto? Io ho grido, ma casotto è vero mica, tra lei e lui. Casotto è vero, adesso al primo di febbraio arriva mia nipote qua. Vive qui, quindi ho preso il televisore la scorsa settimana, lo smartphone, cioè non lo smartphone, il televisore quello smart TV, quindi si aggancia direttamente lì e la vedo sta tranquilla. Poi comincio a buttarci un po' di roba di quella roba che ho. Tanto non ne faccio niente, non ne vuole nessuno, quindi a un certo punto cosa cazzo me ne faccio? Di quelli cavetti eccetera eccetera, portatili, quello che io ci butto la montezza a fanculo. Un po' di pulizia, un po' di pulizia, aspetta un attimo, voglio vedere se abbiamo signor Bacchisi in ascolto. Attenzione gigante, attenzione gigante. Ha detto che si è ritirato. Buonasera signor Marino. Ciao Antonello. Buonasera signor Tore, ben alzato. Avanti signor Tore per Antonello di Sassari. Ehi, come va? E come che vuoi che vada? Da un piede all'altro. Vero signor Marì? È interessato andare sempre, non hai capito? Interessato andare. Avanti Antonello per Tore, mi è arrivato qualche messaggio al cellulare, così non lo guardo, dai. Allora, come va? Tutto a posto, sì. Meno male, almeno quello. Andrei a posto? Sì, io per me lo sì. Ma tu già sei tranquillo. Se bisogna che faccio pulizia, io qua a casa, arriva mia nipote, quindi a un certo punto incomincio a buttarci un po' di roba. Di cose. tutti quella roba che mi sono conservato per la telefonia, roba del genere, che tanto non me ne faccio niente, si va un po' tutto. Tanto non le vuole manco cosa, non le vuole. Ma con quell'imbecille di cazzo di quel negrero, di quella niente, hai capito? Allora gratis se la roba la vuole. Quindi a un certo punto, cioè, anzi, faccio una cosa, faccio. Allora i poveri, voi poveri se la venderanno a un certo punto. Come fai bene? Di nessuno, Antonio. Ormai siamo tutti ricchi, vero, dottore? E allora? Tutti siamo ricchi. Antonio, se faccio un salto in settimana, ti chiamo, ti ho portato quel cavalletto che ti ho detto per quella pianola, vedi? Anche stasera lo stavo guardando, ho detto lì, il cavalletto Antonello, bisogna che lo porti. Vabbè, quando vuoi c'è problema, portamelo quando vuoi, già sono qua a casa, sì. Già ne ho roba qua se ti serve, mi c'ho un coso della Fast Web, poi c'è quello della team, per cancellare il telefono. Dopodiché ho i segreterie telefoniche di quelle nuove in scatolate, a che servono, cosa ne so io, basta che le faccio fuori. Io tu facciamo un blocco, là, fai un blocco e acquista tutto tu la roba di Antonello, dai. Che ti credi, ma maggio di riempire un po', maggio di fare pulizia in magazzino, io, pensavo un poco, e mi pongo la roba, non saranno. Oia, mi ha fatto poco pulizia, vero? Oia. Io invece c'ho un po' di roba lì. Ma tu lei, bicchiere carici, te ne servono? Lascia perdere, qui ce li ho tutti. C'ho anche i piatti, non solo l'altro. Là, c'ho i piatti, quelli bicchieri, di quelli molto vecchi, ti ricordi quei bicchieri da Napoleon, ti ricordi quelli placati in oro? Ehi, tutti gli antirati, raggio, questa roba, tanta regalata, ma cosa è vostra, avevo un poco di, oppure bicchieri della birra, ma me ne regalavano una cassetta intera, ho tutte d'altre, ho fatto più pulizia un giorno, ragazzi, tutto aggiurato, boh. Adesso c'è un negozio che c'è in via Tolentana che sta chiudendo, ha chiuso. E mi ha dato pure i cassetti dove c'erano dei calici, ma roba nuova, tolta dalla vetrina, roba calici, ma non roba di birra, calici belli, eh. E poi mi ha dato roba di, come si chiama, roba di tè, bicchieri di tè insieme alla portazucchero e altra roba, boh. E adesso faccio un blocco e tirapo tutto, tirapo. Avanti, to. Uia. A me domande di dazzo e tutto quanto. Naggio tu è vero il Naggio. Ma lo sai la roba che ci ha tolto da qua sotto? Oh, yeah. La roba c'era una fila, bicchiere e cose, tutto quanto dato. Ma cosa ne fai? Cosa ne fai a tenere in vista in mezzo ai piedi a rompere le scarpe? Lampa di tutto e ciccia. Ho dato un amico a te, Piradini, venditini, se vuoi, dalle, ragazzi, biasi. Si è caricato la macchina e si è tutto portato via. Solo adesso quella signora qua mi ha dato un po' di cassetto, lo guardate, io non ne posso nulla. È una cortesia che l'ho fatto, ma adesso ho detto, adesso trovo Antonello, gli do Antonello. Altre domande se ne porta Antonello. I bicchieri? I bicchieri belli sono, dei calici sono. Sono dei bicchieri, poi c'ho delle chicche di tè, il servizio completo a me. È roba bella, Domani, quando salgo, devo fare una commissione, andrò a tua, ti chiamo e ti porto tutto, dai. Una moto ne ho, se ne vuoi. Vabbè, non c'è problema, io ti do un po' di roba da qua, allora. Qui ci facciamo scambio. Un po' di roba a te, un po' di roba a me. A un certo punto, già vuoi ti ricca io. Tanto lì, mi piace il lavoro, perché fa poco arriva il mio nipote qui, a un certo punto. La roba devo fare fuori. C'ho questi per computer, come si dice, vabbè già lo vedrai, comunque sia, c'ho, come si dice, di tutto, basta guardare e te lo porti via, non c'è problema. E adesso domani procuro un po' di cassetti di cartone, procuro da uno a uno il sigillo e metto la carta. e ti salgo tutto, poi quello che vuoi fare, fai. E ragazzi, vai su di Biasi, dove l'ho tenuta. Ripeto, ho fatto una cortesia con la signora e basta. Il giorno che salgo, carico in macchina e te salgo giù. Passo là dietro, in garage, stanza al garage, sei sotto. Scendiamo in garage e scarichi direttamente nel box. Vabbè, non c'è problema per quello, là, non ti preoccupare. Poi già ti do le cose io, un po' di quella roba di elettronica che avevo io, buttata qua. Tanto non ne faccio niente per computer. A te serve, quindi a me no. Io non c'ho il computer grande, c'ho il computer piccolino, ma non va bene. Non accetta niente, quindi a me lo tuo lo accetta. Ti do tutto. Così te la prendi e te l'agganci, da lui te ne fai uno e sei tranquillo, tanto tutto il tremolo qua è cosa a campione, non saranno, non esiste. Io vediamo se c'è ancora signor Ottore, un altro Ottore, vediamo se c'è signor Bacchisio gigante, attenzione Bacchisio, non ha voglia oggi, avanti tu. Sì, ha detto che se n'è andato in ferie e non può farvi da più con nessuno. Ma no, vuol dire, sta facendo una cosa oppure c'è gente in casa, dai. Se no sarebbe entrato due minuti. Avanti, Torricino, che ci racconti? Ma da sabato che no entra, pensa un poco. Io questi giorni è incasinato, capito? Non sono neanche andato a trovarlo, guarda. Sinceramente, è incasinato e non ci siamo visti. Anzi, domani, se il suo prima, lo chiamo e ci vediamo. Bene, così è Antonella, adesso mi hai dato l'occasione, domani mi preoccupo un po' di cassette, si girò tutto e settimana, mi sa che non sia sabato, già è sabato, vediamo se devo andare a prendere un nipote vicino a te, vicino a casa tua. Vengo, ti scarico la roba, poi andiamo a fare l'altra commissione. Avanti, signor Antonello. Non c'è trovata per quello, già lo sai, quando vuoi e come vuoi. Già sono qua a casa per quello. E adesso non facciamo quei documenti. Lunedì mattina la questione del foglio ISE, quindi se non faccio quello entro il 30, mi tolgo tutto con la tale di cosa, ragazzi. E poi lo farò un'ora al giorno, ragazzi, figurati. Ricordate, mi mandi come si chiama la. Dove c'è un amico mio che fa la mondezza, mi porta lui a passeggiare, faccio un'ora e poi firmo, torno a casa, vi dico, a un certo punto e mi basta ogni giorno fino a 8 giorni. Ma ti è arrivato il foglio per fare i lavori oppure già ho sentito qualcosa, ma ti è arrivato il foglio già, la chiamata? No, non mi è arrivato ancora niente, ma se mi arriva te lo sto dicendo, quando vado a parlare glielo dico, guarda, io a tarmi dentro a casa non ci riesco, quindi decidere cosa vuoi fare, Ricco. O mi manda a lavorare, se no dico a un certo punto, io non posso prendere un disciplinatore che ci vuole mezz'ora a sistemarlo e mezz'ora a lavorare, e cosa faccio? L'imbecille, dico. Quindi a un certo punto mi mandi me. Per conto suo a dare una mano per dire a quello che fanno la mondezza, per dire entro alle 6:30, io entro alle 6:30, non mi sbatte niente, do la mano a loro, dopodiché alle 8:30 loro lo prendo e me ne vado a casa, dico. Alle 6:30 no, noi siamo alle 4, anzi c'è una scuola che entra alle 2, se tu vuoi entrare alle 2 alle 8 te ne vai, bene ti va. No, devo fare 8 ore a settimana, hai capito? Per 16 settimane, il discorso è quello. Il discorso è quello lì. Quindi io entro, allora che entri tu, in pratica faccio tipo tirocinio, mi hai capito? Mi sta anche bene a me, la verità, perché mi sta anche bene. Per 16 settimane, dopodiché faccio la domanda, se riesco a entrare è bene, se non se la pigliano in culo. Così è. Hai capito, Antonio? Ehi, qualcuno mi stava chiamando, Ma sono Gio Maria. Ehi, dimmi, Tom, buonasera. Ehi, caspita. Allora, due, ma sulla 27 ieri. Io ho fatto la chiamata su 23, ma non mi ha risposto nessuno. Buonasera anche a Marino e buonasera anche a Antonello. Buonasera anche a lui, dottore. Sì, ciao Giovanni, ben sentito, ben sentito, buonasera anche a te. Bene, avanti Tom. Sì, caspita, io ho sentito, ho provato a chiamarti, ma non mi rispondi, allora ti ho chiamato qua. No, anche in questo momento io, e ho fatto la chiamata direttamente senza ascoltare, senza nulla, capito? Ecco, tutto lì. Vabbè, non è successo niente, per cui tranquilli, dai, avanti, riprendi, te la fai girare. Sì, ok. Il pilla della Mari. Bebù. Tutto bene, no, male, andiamo, andiamo. Tore, tore, senza motore, avanti, signor Antonello. Andiamo bene, andiamo, bobo. Avanti, avanti, chi è? Sì, oh, bobo, andiamo bene, andiamo. Buonasera a tutti. Bobo, ti sento disperato, cosa c'hai? Ciao Luca, no, è disperato, magari. Piccato è incazzato perché ce la fai. Aspetta. A fare un'ora al giorno per 8 giorni, ma stai scherzando? Come fai a fare un'ora al giorno per 8 giorni? Me lo spieghi? Cioè? Noi di cittadinanza, adesso, se lo fai un'ora al giorno per il comune per 8 giorni, te lo trovo la carta. Quindi fai, entri alle 8 del mattino e riesci alle 9 del mattino. Poi non lo so che lavoro fai, se farai il pinguino, se accompagni i bambini a scuola, come i vecchietti, cosa ne so io? Ecco, la legge è quella, purtroppo bisogna farne, punto. Fisso che ti date li fai, è un'ora, cosa vuoi, ti bici 700 euro, cazzo, magari puoi essere più fisso, l'abbiamo fatto ma sempre, scusa. Sì, te ne vedi uno, ti metti sotto, e che cazzo ti paga te, secondo te? Che altre cose devi stai facendo anche tu? Non hai capito che è gratis? Gratis è comune, mi. Non hai capito nulla, tu. Non ti paga, se tu hai fatto soccorso, non ti paga nessuno. Sì, Antonello, stiamo facendo un discorso di quei soldi da testa che vi stanno dando, non a te, a tutti, diciamo, là, per le cose di cittadinanza. Hai capito? Se non fate questo servizio qui vi tolgo l'assegno, capito? Allora, non ho capito nulla, cos'è detto? Ah, prima devi lasciare la sigaretta, stai fumando troppo Antonello, è la tosse per la sigaretta, lasci. Ho detto, questa roba qua che stai parlando, lo stiamo facendo per il discorso dell'assegno che state prendendo, hai capito? Dunque è come state lavorando, siete pagati, invece per i soldi da gratis, senza fare nulla, vi mettono a fare qualche lavoretto. Un'ora al giorno, un'ora bisogna farlo purtroppo, è così, non c'è niente da fare. Avanti Giovanni! Aspetta, quella che io sono d'accordo su quello, perché io facevo 3 ore alla settimana, Luca già se lo ricordo, faceva anche lui, 3 ore alla settimana, in pratica per 3 giorni e ci siamo, 3, 6, 9 e ci siamo, a un certo punto. Andava anche bene, a me mi andava anche bene, anzi benissimo piccato, ma un'ora al giorno, per 8 giorni, ma mi sembra una presa per il culo a un certo punto, due sono le cose, o mi faccio tutte le ore io, 8 ore in un giorno solo, che è meglio, per 16 settimane, o se la prendo per il culo, il discorso è questo qui, io dichiaro così, io mi faccio 8 ore, quindi facciamo il calcolo, dico, perché io per un'ora non ci vado, mi fa fare 8 ore a me al giorno, basta, quante settimane sono? Non sono 16, ma sono 3, mi faccio 3 ore e io sono a posto, dopodiché mi richiamate, il discorso è, io non posso andare per un'ora, cosa faccio per un'ora? Niente, perché se vado dell'erba e cose del genere, non ce la fai, neanche usare il cespugliatore o solo l'altro, hai capito il discorso cos'è? Purtroppo non è così, Se ne fa un'ora, ne fa un'ora, non te ne fanno fare 8 ore tutto assieme. Nel discorso stavano dividendo le ore, capito? È entrato un amico mio stesso alla cosa di Vigio Urbani per fare la manutenzione e fanno 3 ore e mezzo, 4 ore al giorno fanno. Purtroppo è così. Non sei tu che devi decidere le ore, sono loro, 1 ora al giorno, ti fa 1 ora, non fai nulla, non te ne sbatte nulla, interessante risulta che tu hai fatto 1 ora, capito Antonio? Io so che 1 ora non fai nulla. E ti dà anche fastidio fai andare di là, piazzate, cambiate già 1 ora passata. Ma non c'è problema, non te ne frega niente. Interessante che deve risultare che tu hai fatto 1 ora al giorno. Hai capito? Se tu dichiari che non ne fai, ti bloccano tutto, ti blocco, è tutto fatto apposta. Avanti Giovanni. Allora, vabbè Giovanni, non riprende, riprendo io. Cazzo, facevo 4 ore giornaliere io, quando facevo il servizio civico. Facevo 4 ore, tagliavo erba e pigliavo 350 euro al mese. Adesso questi qua sono di più, per 1 ora e ci andrei, anche per 2 ore ci andrei. Magari che mi chiamassero, sono subito pronto io. Purtroppo dunque sono le... non so loro, capito, c'è le cose che devono comandare così. Ti fanno fare 1 ora, 1 ora e fai, poi non ne fai, non ne fai. Deve risultare che tu hai fatto 1 ora, se no ti bloccano tutto, la carta, quello che stai prendendo. Io so che non va bene, perché non va bene, 1 ora non fai nulla. Purtroppo è così, non ci puoi fare nulla. Avanti to. Purtroppo è quello. Prendi 700 euro, devi fare, ti dicono di fare 1 ora la mattina, fai 1 ora, fatta che sono, abili in bed e tennanni. C'è da stare a borbottare né nulla. Guarda, è così che si deve fare. Ma io avrei fatto anche portare i bambini a far attraversare i bambini a scuola, perché no? Magari, l'avrei fatto, c'è da tagliare l'erba, c'è da raccogliere cazzo un casino di mondezza buttata, ma anche qua in zona, mi, qua sotto me di Pisa, anche al monte, bottiglie. Basta, mi danno l'occorrenza, cioè mi danno gli attrezzi, le buste, ma non lo faccio. Io mi pari vero. Interessa che sei impegnato, capito dunque, interessa che fai con le ore di tricolore e basta. Se no quelli si prendono e bloccano tutto, ti bloccano la casa e quello che ti stanno dando. Io lo so Antonio che 1 ora non è nulla, perché non è nulla, è più la perdita delle cose e basta. Purtroppo bisogna fare così. O quello o nulla, hai capito Antonio, avanti. Ma io devo fare 3 ore al giorno e quello ti vuole spiegare, quello non fai nulla, hai capito? Ma tu cosa fai? Io ho fatto nulla, perché oggi non si non mi ha fatto nulla, ma non si può fare nulla. Per viaggiare anche, per mangiare. Tutto non posso fare, 4 ore, ti diverti, no faccio 1 ora, come se ti rilassato, eccetera, eccetera, a un certo punto qui, quello ti voglio dire io. Vabbè, 2 minuti arrivo subito, là, e poi già non c'è problema. Ok, prendo io. Già ti ho capito il discorso, Antonio, già lo so che un'ora non fai nulla, purtroppo l'orario. L'orario è quello che devi fare e basta, non c'è niente da fare. Ti puoi salire e scendere. Interessante che sei impegnato e qualcosa devi fare. Se no ti bloccano tutto, non c'è nulla da fare. Vediamo se Gio Maria è entrato. Avanti Gio Maria. Gio Maria non è entrato, avanti Luca. Se ne è andato. Luca non riprende, torna avanti. Cosa volete fare? Beh, se ne travaglio, non lo puliti, che andiamo via, andiamo. Perché ti fa così? 1 ora ve ne dati di travagliare, 1 ora ne vedi, cazzo, sono 700 euro mica, se no al prossimo mese non vi date ne nulla. Quello il discorso che sto dicendo, capito? Le bloccano tutto, le blocco, io so che un'ora, un'ora non fai nulla, ma tu fai nulla nulla, non so come mettere qua, interessante tu fai un'ora e risulta che tu hai fatto 1 ora, hai capito? Tutto qua, va bene, vediamo se Luca è entrato, Luca? Mi senti Marino? Mi sento sì, poc'anzi no. Vabbè, secondo voi mi mettono, mi senti. Ho detto che io farei anche 4 ore, chi se ne frega, ma tanto i soldi alla fine non sono tantissimi, però se ti mettono lì in zona, poi se inizi a spostarti alla fine non è che conviene che ti spostare con un mezzo. Ah, si può, per un saluto. Avanti. Buonasera, era ora me. Ma dove? Io ho chiamato chi l'ha visto. Avanti, buonasera, signor Bacchisio. Buonasera Marino, buonasera Luca e Tore. Buonasera a tutte e tre. Io ero in Hawaii, vieni e vai, capito? In giro per l'Italia. Biada a te, biada a te, signor gigante, biada a te. Chi può? Hai sentito, dottore, dove era Bacchisio? Fa vedere nel coro di Livorno era. Così è Bacchi? Era Livorno, era dei Brasili. A Livorno eri? Ora, era alla Hawaii. Ma se ne vogo eri? Ia. E sono andato lì, siccome dice non hanno consumato l'acqua, non c'è pipì, sono andato a fare la pipì lì. Andiamo, do Bacchi, Bobo. Così è to. Una cosa, una piatta a 100 euro. Senti la gente, tu non ne va, te ne dratta ne dira. Non ne abbia dato io. Chi la vuoi la mia? La vuoi tu la mia? No, la mia la vuoi. Oh, io cosa dico così? Io dico così, zena, trattene tira. Così non le dai 100 euro. Ah, io come dovevo avere la mia? Vabbè, peggio per te. Luca, avanti. Luca, risponde, gigante. Tu mi senti? Quasi, quasi non ti sento. Abbassa un po' le voci, prima che venga lì per l'antenna. Canta la minirà, pisa. La Ugo il gommino. Il gommino, porco, sta arrivando, non andando bene. Benissimo, Lu. Tu sei a casa o qua giù? No, no, sempre qua giù, vicino a te, dai. E allora per quello anche. Non pensavo che eri su. Avanti, signor Marino, vabbè, come la va la vita? Tutto ok, tutto ok. Mi stavo, stasera mi stavo sistemando, oggi ero a riposo. Sono salito su a fare la visita, Luca. Quella visita che hai fatto anche tu. Mi ha detto l'intervento, per il momento niente intervento, mi ha dato una cura, già va bene così. Che in effetti io dolore non ne ho, dolore non ne ho. Mio collega aveva dolore e ha fatto intervento, io dolore non ne ho. Comunque mi ha fatto una signora visita, va. Mi ha detto ci vediamo fra 18 mesi. Andava bene. Ti volevo dire, Bacchino, stasera poi mi stavo sistemando il raccoglitore del lavoro, mi si è fasciato pure la cosa, mi si è fasciato, non leggiamo. Avevo prestato la levettatrice nuova della USAC, me l'ha rovinata, ho messo la levetta e mi è rimasta in mano. Ah, se domani quando esco va la prendo. Avanti, Bacchino. Vuol dire quello che l'ho usata, non sapevo quanto è me. Per carità, poco guarda, è la nuova nuova, io poche volte l'ho usata, figurati, non sai quella roba la usi una volta ogni tanto. Siccome c'è un raccoglitore mezzo sfasciato e sto usando il raccoglitore di un collega, ho detto adesso ne approfitto, l'ho buccato con col trappo, adesso ci metto poi un po' di rivetti così dal loro rinforzo. Oh, ho messo un rivetto e poi l'altro non ho niente da fare, era tutto imbarrato all'interno, ho preso, mi sono incazzato e ce l'ho buttato. Domani mi avvicino alla cosa, ma va, ma la prendo, ma si veda. Bene, Mera. Oh, signor Sardina, avanti. Dore. Eia, adesso ginocchi io. Scuoletto, ti ho detto di avanti e non mi rispondi, io non ho capito. Ti volevo dire, Luca, allora le televisioni adesso ci vuole le code, così è. Non ho capito, no. La TV, secondo che TV c'è, ci vuole il decoder, giusto? Esatto, se è di 3 anni fa, sì. Se è di 3 anni fa non c'è bisogno. Cioè, proprio 3 anni fa, 2 o 3 anni fa, se non mi ricordo. Non c'è bisogno, altrimenti ci vuole il decoder. Un altro caso, no, quello grande che c'ho a casa già va bene. Quello da canaletto l'ho preso già con quel sistema di là. Quello di giù, dove sono qui, nulla da fare. È nuovo, sicuramente ci vuole il decoder. Ma si veda. E il decoder vecchio non va bene, no? Posso, babbo, dai, io vi saluto che sto devo cenare, dai, ci sentiamo alle prossime, ciao Marino, ciao a tutti, Bacchisio e Tore, ciao. Okay, ciao Luca, ben sentita, domani se concilia e saluto di la signorina, avanti Bacchisio. Salutiamo Luca, ciao Luca, buona cena, buon tutto, saluta la signorina e ci sentiamo domani se concilia. Buonanotte, avanti Tore. Ciao Luca, stammi bene, buona cena. Ok, se coincide domani, andà bene. Io ne approfitto, anche io do il mio QRT e vi saluto, ci sentiamo domani se tutto andà bene. Ok, ciao Bacchisio, ciao Marino e ciao Antonello. Ok, ciao Tore, ben sentita, domani se coincide siamo tutti in casa. Avanti Bacchisio. Ciao Ottore, buona serata, buona cena, buon tutto, saluta la signora, a domani si concide. E chi era? Antonello Pomponio? Esatto, vediamo se è entrato, Antonello? Antonello? Pomponio! Si è spostato per una questione. Ok, allora signor Marchisio, questi giorni dov'è? A Cuba? Cubando stavo cubando Marì, ohia. No, acceso, questi giorni ero impegnato facendo pasticci, roba varia. Anche poco fa ero con la mente occupata. Sì, mi ho immaginato perché ce l'ha colmato. Ma Bacchizio è sicuramente impegnato. Stava pasticciando, magari anche con la sera lo stesso. Meglio così, meglio impegnato la mente, intanto. 10 minuti e passiamo oggi, dai. Sì, infatti ho fatto così. No, c'avevo tra le mani dall'altro giorno, da sabato, l'avevo smontato tutto e oggi lo stavo rifinendo, aggiungendo dei leder e bavaria. L'ha terminato, no? L'ultimo collegamento, bisogna fare la spia della ventola. Ehi, con calma, domani, con calma, te lo fai. Domani te lo sistemi, no, io questi giorni salivo su alla... Ho visto non c'eri, su all'Acri, perché... Dopo ho preso la sala, gli ho ordinato la sala per il febbraio, che c'è il battesimo di mio nipote. Siccome c'è un socio me la dovevo dare, capisco, la sala, loro c'hanno la sala, diciamo. E io ho già prenotato. Si sa mai prenotato la gente e poi non me la danno, capito? Tutto qua. Bene, avanti. Ok, allora sì, ora si è a posto, l'ho fatto. No, domani devo salire su, alle parti di Pomponio. Per pagare l'assicurazione, mi scala l'assicurazione, devo passare lì per forza. Infatti se c'è Pomponio non posso, mi aveva fatto quel lavoro a fare, non l'ho più sentito. Lo chiami sempre segretaria telefonica, non raggiungibile. Alla fine mi sono scocciato. È incasinato, è un periodo critico questi giorni, è troppo impegnato. Vediamo se c'è Antonello. Antonello? Nulla da fare. E domani mattina provo a chiamarlo. E dunque domani non ci vediamo, ma chi? Come non ci vediamo? Perché non ci vediamo? Se uno diventa cadavere non si vede, ma già ci vediamo. E ci manca di altro, io. Vabbè, io a quell'ora ci sono scritto, dai. Domani mattina devo fare una commissione e poi già ti faccio uno scritto, tu per quello fare la campagna, sua, scolazione e così via. Poi già ci vediamo giù, ci vediamo. Tonello? Antonello? Nulla da fare. Boh. Bene, Neda. Avanti, sono gigante. Sì, io non tanto salgo presto all'assicurazione, capito? Salgo presto a campagna, scendo, metto a mangiare i cani, sto un po' in campagna, poi via, io andiamo a pagare. Vediamo un po' cosa c'è d'aumento. Sempre a pagare, ma sai cosa, Uglia? Insomma, hai iniziato bene là quest'anno, a pagare, da chi? Ah, di lusso. Ho già pagato il bollo della macchina, l'ho pagato volentieri, dunque adesso ho comprare il motore, portare la macchina a fare il tagliando perché devo andare a revisione, e insomma un po' di giri ho da fare, là. E un po' di danni devi spendere, boh, l'ho preso. Hai iniziato bene, hai finito l'anno che hai speso con la spesa, e stai iniziando bene pure quest'anno, boh. Oh, io vabbè, là. Siamo sani, che soldi va e tornano. Ah, quello sì, ancora non ho finito giù. Ancora devo chiamare Alberto per collegare il motore quando lo compro. Con calma, possiamo mettere per il motore e così lo fai collegare. E ciccia, l'ho preso a 2,20, da un cavallo e mezzo, e si è a posto. E anche quello è risolto, per carità, meglio, ma sai, forse, se non mi sbaglio, domenica sera ho visto la macchina di quello là in casa di Bastianino. Ma là c'è un fiorino, c'ha. Eia. Da lontano, mi sembrava, mi parliamo un fiorino da lontano. Ma sei andato a rompere il cazzo da lì a Bastianino. Ma è quello della macchina mia? Esatto. E lui. Ma io sono andato da Bastianino. La rompe le scatole sicuramente. Domenica ho inaugurato quell'affare, quella graticola lì, domenica. E sceso mio cognato, l'abbiamo messa a fuoco, l'abbiamo bruciata. e l'abbiamo tutta bella riempita, l'abbiamo. Però in certi punti, sai, è partita questa battuta in certi punti, ma che? Che so? Perché quello là che mi ha fatto l'articola ha saldato uno sì o no, uno sì o no sicuramente, boh. Non è saldato uno sì o no, piegata sì. No, non si è piegata, si è risaldata in certi punti, là, nei fianchi, in un punto, là. Quella che avevo saldato io? Sì, ma adesso, sinceramente, no, non ci ho fatto caso, Bacchì, se era tuo oppure quello là, non ci ho fatto caso. C'è la parte del manico, no, la parte di davanti non l'ho saldato io. Sì, ma non ci ho fatto caso, Bacchì, sinceramente non ci ho fatto caso, io. Con calma l'attacco e mi sta dicendo mio cognato che in gelatina le saldiamo due dadi vicino ai manici, così le metto due pezzi barrafilettate e ci faccio due manici di legno, perché quando sta rossendo brucia per lo sbanico, come puoi suare? Quando è calda brucia, eh? Perché quello è sbagliata, bisogna metterci il manico in legno, i manici fatti a nuovo, come l'ho visto in campagna da me il barbecue, quando lo sollevo non mi brucia perché c'è il manico in legno. Esatto, e magari gli altri le saldiamo, due dadi le saldiamo, le metto due pezzi di barre frettata e ci infilo un pezzo di mani di un pezzo di legno e la abbiamo, ma che brucia, stavo usando i guanti per tirarla, figurati, comunque va benissimo, che va troppo bene là. Funziona bene, benissimo così. No, sempre lì basta prendere un pezzo di legno, forarlo, infilarci il passante un pezzo di ferro passante e collegarlo alla graticola ed funziona perfettamente. Come? Collegato ai manici che c'ha? No, quelli tolti fuori, quelli bisogna toglierli. E magari se dai, un giorno prendo e la porto a te, tagliamo due manici, le saldiamo. Io sto pensando di saldare due dadi, no? E poi prendo un barra filettata e poi si infila un pezzo di manico di legno e si tira con le tipo manico, l'ho capito? No, basta. Adesso quella lì, nella curva, basta tagliarla nella curva con la moletta. Prendere un altro pezzo di ferro della stessa misura, fare il buco nel legno, portarlo lì e saldarlo. Anche, interessante, quando io la tiro fuori non mi brucio le mani, perché stavo usando i guanti, perché lo sai, c'era il fuoco, ho fatto un bel fuoco, tu mi hai fatto un bel fuoco per bruciarla. E poi una volta c'era molto calore, capito? E per quello è. Non dunque abbiamo utilizzato i guanti, comunque già va bene, dai. Andare anche a misura, quel tanto abbiamo tagliato, già va bene. Bene, vediamo se c'è Antonello. Oh, si può anche c'è gente a casa e non rientra. Avanti, facci. Ma che l'abbiamo fatto? Io chiedo un permesso di QRT perché devo prendere le medicine, sono le 8. Andiamo bene, Marì, ce la vediamo domani, ce ne discutiamo. Per quello lì, quando vuoi, mi crea un fischio, il giorno prima mi tengo a disposizione, lo facciamo. Una lettera di lavoro, neanche. Solo che o rimettiamo un pezzo di canna oppure legno, vediamo un po' cosa si può fare. Ok, adesso vediamo con calma, non c'è fretta, Bacchì, non c'è fretta. Ok, dai, domani ci vediamo, Bacchì. Ciao, un bel sentito, grazie della chiacchierata. Era corta, ma già ci vediamo domani. Saluto anche tutti gli ascoltoni e io anch'io me ne vado in quei reti, dai. Ciao, Bacchì, a domani. Ok, ciao Marino, buonanotte, un buon tutto, saluto in casa. A domani tutto va bene. Bye bye. Ok, ciao Bacchì, ciao, a domani.